contatto. Corso di italiano per stranieri. Di Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi e Monica Piantoni. Löscher Editore 2005. Unità 1. Per capire. Traccia 1. 1. Ciao, io mi chiamo Carlos, e tu? Ciao, io sono Magdalena. Di dove sei? Sono svizzera, vengo da Berna, e tu? Io sono spagnolo, di Barcellona. 2. Ciao a tutti! Ciao papà, finalmente sei arrivato, come mai così tardi? C'era tanto traffico stasera. E Marion? Sono qui, buonasera signor Marchesi. Buonasera Marion, allora com'è andato il primo giorno di corso di italiano? Bene, bene, grazie. 3. Buonasera, scusi, sono nella stanza numero 18. Ecco la sua chiave, signor Lopez. Senta, posso avere la sveglia alle 7 domani mattina? Certo, allora alle 7, stanza 18. Buonanotte. Buonanotte. 4. Buongiorno, scusi, devo andare al Duomo, ma non so a quale fermata devo scendere. Sì, guardi, deve scendere alla prossima fermata. Ah, grazie. Prego. Buona giornata. Arrivederci.